Bentornati a Rock Legends su Radio RCS l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso i Roadless. La frequenza più vicina è 98.6 per la bassa veronese, zona della Lessinia. 101.5 per Verona e provincia. 91.5 per la zona del Lago di Garda. E 94.7 per la Val d'Adige. Radio RCS si può ascoltare poi attraverso lo streaming sul sito internet www.radiorcs.it. Dal Southern Rock americano, l'hard blues anglo-americano degli anni 70, due generi che hanno dominato in quegli anni negli Stati Uniti. La prima canzone era dei Faces, formazione inglese che oltre ad includere tre degli ex Small Faces, vedeva anche il futuro Rolling Stones Ron Wood e il vocalist Rod Stewart. Dal disco A Not As Good As Wing del 1971 abbiamo ascoltato Stay With Me, band che ebbe un grande successo in America e fonte di ispirazione di alcune formazioni americane quali Georgia Satellites e Black Rose. Quando l'Inghilterra riesce a assorbire il rock americano lo ripropone con inventiva, che ne dite? Ma guarda, ti dirò Gianluca che secondo me non è che poi tanto l'Inghilterra sia riuscita a metabolizzare il rock americano, cioè il blues rock così. Lo vedo ancora tanto radicato nell'indole americana, l'Inghilterra ha soltanto provato a imitarlo secondo me. Va bene, Whiskey for Breakfast è il titolo del vostro disco, qual è il significato che avete voluto dare per l'album? Allora, Whiskey for Breakfast è un titolo abbastanza ironico, nel senso che nasce questa canzone pensando al nostro bassista. Effettivamente è il pezzo un po' più giocoso di tutti, un po' più ironico, il più leggero tra l'album, che invece è abbastanza introspettivo ora della fine, cioè tutte le ricerche sembrano essere una sottospecie di ricerca interiore, cioè lo si legge già dai titoli secondo me, Seeker of Gold, che è il cercatore d'oro, Steps, Crumbs of Difference, e riflettono la storia di una persona che cerca di farsi strada fondamentalmente. Ancora musica, passiamo ai canadesi Bachman Turner Overdrive, band canadese nata dallo scioglimento di Guess Who, si fece notare nel 1973 con il disco Not Fragile e il brano You Ain't Seen Nothing Yet. She said I had it coming to me, but I wanted it. Le formazioni rock canadesi sono note per la loro originalità musicale. I Bachman non fanno differenza, che ne pensate? Ma sai che ti do ragione, alla fine il Canada ha sempre sfornato degli artisti abbastanza alternativi, dai Black Mountain ai Rush, che hanno sempre saputo dare quell'estro in più, cioè qualcosa di diverso da tutte le altre band che ascolti. Sarà il clima? Freddo casomai. Esatto. Vostre influenze musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione delle vostre canzoni? Ma guarda, ti dirò, anche se comunque siamo sull'americano, ascoltiamo un macello di musica inglese che va dai Beatles, gli U, tutti i propri vecchi gruppi, le Zeppelin, Deep Purple e compagnia. Poi, cioè, tutto è arrivato, tutto questo insieme di suoni da parte di tutti quanti che ci hanno portato a fare questo genere, che non è che ci definiamo proprio... americani, insomma. Americani, però, insomma, questo è quello che è venuto fuori, quindi probabilmente abbiamo una vena così. Gli diamo allora la seconda parte con i Doobie Brothers, amatissimi anche dal pubblico europeo. La formazione di Tom Johnston e Pat Simmons dal disco Toulouse Street del 1972 con il brano Listen to the Music. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco dei Roadless, Whiskey for Breakfast. Stay tuned.